Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Il nostro ospite d'onore, diciamo così, è Enrico Letta, deputato del Partito Democratico. Si presentò nelle famose primarie dell'ottobre dell'anno scorso a candidato alla segreteria ed ebbe un buon risultato, diciamo, di minoranza. Non prevedeva di vincere, ma voleva dare un segno con la sua candidatura. Letta è parte dell'AREL, una famosa associazione di cultura, di sussidio e aiuto al legislatore, fondata a Bologna da Nino Andreatta, un'associazione di cultura cattolica, cattolica di sinistra. È nipote dell'altro Letta, il famoso Gianni, il sottosegretario di Berlusconi, ma ha tutta un'altra storia politica e personale. Certo, è un moderato, non si vergogna di esserlo, e ha scritto un libro, un manifesto, che ha un titolo suggestivo. Il titolo è Costruire una cattedrale, che fa appello a uscire dalla sindrome del presente. Il senso di questo manifesto di Letta, il senso più profondo, è questo: se si resta legati soltanto al presente, se non si ha alcun senso del futuro, non si va da nessuna parte. E il racconto allegorico al quale lui affida questo manifesto, ripeto, il cui titolo è Costruire una cattedrale, è abbastanza bello e fu raccontato da Pietro Nenni nel 59, come dice lo stesso Letta nel capitolo introduttivo del suo libro, in Parlamento. Un viandante passa e vede due muratori che stanno mettendo un mattone sopra l'altro e chiede: che state facendo? E uno gli risponde: sto ammucchiando mattoni. E l'altro gli risponde: sto innalzando una cattedrale. Il senso di un progetto, di un disegno, di un'opera che vale per il futuro, della quale tu forse non godrai neanche gli effetti, perché saranno i tuoi nipoti o bisnipoti a goderne gli effetti, ma per la quale tu dai il tuo piccolo contributo di lavoro, di quattrini, di volontà, di partecipazione, tanti piccoli contributi, non il grande magnate, il grande finanziatore. E insomma, facendo casi storici, raccontando la Milano dei Visconti, la fabbrica del Duomo, eccetera eccetera, Letta dice: noi dobbiamo imparare a non più ammucchiare soltanto mattoni, ma avere il senso che ammucchiare mattoni è bello, importante, ha una direttrice di marcia nel tempo, ed è appunto costruire una cattedrale, elaborare un progetto. Perché è interessante avere Letta ospite oggi insieme con Luca Ricolfi, che è docente universitario di metodologia della ricerca, insomma, di statistica all'Università di Torino, e editorialista della Stampa, un editorialista sempre più ascoltato, sempre più autorevole, e Deborah Serracchiani, avvocato, consigliere provinciale di Udine e candidata alle europee del Partito Democratico, giovane per l'anagrafe dei politici contemporanei, 38enne Deborah Serracchiani. Perché? Perché il PD è in grave crisi, rischia di perdere, secondo tutte le proiezioni, le elezioni amministrative ed europee, non ha una leadership stabile, sebbene Dario Franceschini faccia ottimamente il suo lavoro, e non c'è un vero accordo su che tipo di senso dare a questo ammucchiare mattoni tutti i giorni gli uni sopra gli altri. Quindi è interessante, lo dicono i giornali, lo dicono le notizie di oggi: riunioni semivuote, difficoltà nella ricerca dei candidati. A quell'altro gli va l'acqua per l'orto, e il cavaliere non fa una mossa senza un applauso, e questa è la sua condizione in questo momento. Poi magari sarà vanità, sarà come si dice, sarà un effetto fatuo, un effetto di pura apparenza, virtuale come si dice, però per ora è così. A lui gli va l'acqua per l'orto, e a loro, ai democratici, a questo progetto, a questa cattedrale mancata, a questo mucchio di mattoni, manca il senso di una direttrice di marcia. Letta ha delle proposte, secondo me, interessanti, vale la pena di parlarne. Bene, è in collegamento con noi Enrico Letta, che ha scritto questo libro, ripeto, libro manifesto, Costruire una cattedrale. Non gli farò domande presentiste, cioè domande che lo obblighino a fare il politico che deve presentare la sua relazione trimestrale di cassa, diciamo, oppure il politico di corta vista. Non voglio sapere in prima battuta, magari poi dopo ne parleremo, se sfiderà Bersani, e Franceschini al congresso dopo le elezioni europee nel prossimo turno del PD. Non voglio sapere quali sono le sue idee sui candidati alle europee o alle elezioni provinciali prossime venture. Vorrei sapere il cuore delle sue idee, vorrei vederlo ben argomentato da lui. Secondo me il cuore delle sue idee è questo: amare il paese così com'è. Non pretendere di rifare il paese di bel nuovo. L'Italia cosiddetta alle vongole dell'antica tradizione laica e azionista, l'Italia che si rifiuta, l'Italia inaccettabile, l'Italia dei comportamenti furbeschi, un politico moderato deve saperla interpretare. C'è scritto nel suo libro Amare il paese così com'è, c'è scritto l'elettorato ha sempre ragione. Seconda cosa, i tempi. Guardare al 2013. Inutile precipitarsi sull'idea di una rivincita breve delle elezioni dell'aprile del 2008 vinte da Berlusconi. C'è un ciclo che si è concluso, bisogna riaprirle un altro e ci vuole tempo, e questo tempo è il tempo della legislatura. Sbaglio, è così, onorevole Letta? Ma penso che sia così, soprattutto perché nel frattempo ci siamo infilati dentro la più grande crisi economica, finanziaria, ma non solo, è una crisi culturale, di identità, una crisi di consumi, una crisi di vita delle nostre comunità, e in fondo il libro l'ho scritto anche molto sollecitato dal bombardamento di stimoli che la crisi più violenta che le nostre generazioni, in fondo tutte le nostre generazioni, abbiano mai vissuta, a meno che qualcuno non abbia ancora ben presente quello che è successo tra il 29 e la guerra, ma dopo la guerra questa è sicuramente la crisi più violenta che abbiamo mai vissuto. Allora cercai di capire le motivazioni. Io penso che una delle motivazioni più profonde è proprio che abbiamo dato per scontato che le nostre vite concrete e le vite associate dentro la comunità potessero andare avanti con l'idea che il presente si mangia il futuro come regola normale. Cosa sono i mutui al 120% se non questo? Cioè il mutuo che negli Stati Uniti è diventata la regola e poi è passata anche in parte in Europa, per cui tutto sommato puoi da un istituto finanziario avere il 120% del valore della casa. Sì, però scusi onorevole Letta, mi scusi se la interrompo, la parte di analisi economica mi sembra fortemente sovrastata nel suo pamphlet, nel suo libello politico, polemico, molto interessante peraltro, da questa parte di attacco al moralismo, al radicalismo. Lei propone un lavoro di scavo sul lungo periodo, appunto, verso per la costruzione di un futuro politico solido, partendo dalla realtà. Io le cito, per esempio, adesso non per reintrodurre subito la questione della rivalità e dell'amicizia, ma anche della rivalità con Bersani, che è invece il candidato virtuale alla segreteria del PD di origine DS, insomma, di origine postcomunista. Guardi cosa dice oggi sul Messaggero Bersani. Sembra l'opposto di quello che ha detto lei nel suo manifesto. Dobbiamo dare vantaggi concreti ai cittadini in regola con il pagamento delle tasse, all'imprenditore che paga per tempo i fornitori, al gestore del servizio pubblico che soddisfa gli utenti, al dipendente pubblico che ottiene risultati ottimali. C'è una sfumatura di moralismo politico e sociologico, come dire, no all'Italia dei furbi, diamo vantaggi, mettiamoci dalla parte di una presunta Italia delle persone per bene che fanno il loro lavoro. Io lo capisco che un politico deve dire queste cose, naturalmente, ma quando lei dice amare il paese com'è, anche con tutte le sue contraddizioni, mi pare che dica una cosa diversa, o sbaglio? Ma io dico amare il paese com'è perché uno dei problemi del centrosinistra di questi anni, secondo me, è stata questa continua nostalgia per un'Italia che non c'è più. In gran parte io l'ho letta come una nostalgia per l'Italia degli anni 70, che invece mi sento di rifiutare anche, certo, come ragionamento storico, storiografico, quando invece il problema di fondo, quindi l'Italia delle grandi ideologie, con l'idea che poi dagli anni 80 in poi la fine dell'ideologia ha portato solo pragmatismo e deserto di valori. Penso che non sia così, penso che la Seconda Repubblica abbia fatto fare progressi importanti al paese, non fosse altro per il fatto che introduco un altro elemento economico, il debito pubblico è cominciato a rientrare, il debito pubblico che invece nella Prima Repubblica era esploso, ma soprattutto perché ritengo che il problema di fondo del nostro paese oggi è quello di fare i conti con la globalizzazione, e questo parte dalle energie vive che l'Italia ha. Allora il tema di fondo che dico è, fermo restando che quello che dice Bersani però è giusto, perché non è che bisogna solleticare l'evasione fiscale. Questo è ovvio, nessuno ma io dico può. Faccio un altro ragionamento che è diverso e che parte da questo. L'Italia ha tante risorse, queste risorse le ha messe in pista al meglio nei decenni scorsi e ce n'ha tantissime adesso. Quanti italiani in gamba, giovani, sono in giro per il mondo a dare il meglio di sé? Perché magari non trovano in Italia la giusta opportunità? Perché non riusciamo a partire da questi? Perché non riusciamo a partire dalle tante energie che ci sono? Perché non riusciamo, per esempio, a partire dal fatto che, torno un attimo all'economia, noi abbiamo 4 milioni di imprenditori, nessun altro paese al mondo ha 4 milioni di imprenditori, nessun altro paese occidentale, e sono secondo me una fantastica, veramente una fantastico asset, e qui un problema il centro-sinistra ce l'ha, perché io penso che 4 milioni di persone che ogni mattina tirano su una saracinesca, virtuale o reale, senza sapere alla fine della giornata cosa avranno guadagnato, in questo momento in cui il nostro paese rischia di cambiare completamente pelle, devono essere un punto di riferimento per una forza politica che vuole amare e guidare il paese. Ecco, le ricordo che il famoso discorso della cosiddetta discesa in campo di Berlusconi si apriva con questa frase, che allora sembrò un vezzo, una stranezza, un'americanata. L'Italia è il paese che amo. E secondo me c'è qualcosa, lei dice puntiamo al centro, all'influenza su un grande elettorato di centro, puntiamo a un elettorato moderato che accanto a quello populista e a quello progressista è emerso come parte ormai fondamentale, strutturale dell'opinione politica italiana. E lei su queste questioni, tra l'altro, ha intrecciato una polemica con Luca Ricolfi, che saluto e al quale chiedo di intervenire. Secondo Letta, Berlusconi è un unicum, è un imprenditore di successo con una storia personale che gli consente di comportarsi come si comporta. Uno può amarlo, non amarlo, detestarlo, criticarlo, incalzarlo, fargli l'opposizione, sostenerlo, comunque è un unicum e non si può stare su quel terreno lì per batterlo. Bisogna costruire un'altra cosa, la cattedrale della sinistra progressista o dei progressisti di centrosinistra deve essere diversa da ciò che ha costruito Berlusconi. E non ci può essere una leadership alternativa e vincente a Berlusconi sul suo terreno. Invece Luca Ricolfi dice questa è un'idea fissa che circola nel centro-sinistra, e proprio in un articolo di oggi sulla Stampa, e invece no, il problema della leadership è il problema decisivo. Prego Ricolfi. Ma veramente io non penso che il problema della leadership sia decisivo in sé. Non lo pensa, ma lo scrive però. Tranquillamente fare a meno del... No, dico Ricolfi, lei non lo pensa, però lo scrive, quindi no, non no, sì, in errore. Io dico una cosa un pochino diversa, cioè che intanto non capisco questa fobia del leader, questo è vero, ma soprattutto non capisco qual è la soluzione alternativa, perché uno può benissimo immaginare degli altri meccanismi, ad esempio il Partito Comunista aveva il centralismo democratico, ci possono essere altre soluzioni per limitare la litigiosità e la faziosità interna delle fazioni della sinistra, però queste soluzioni io vorrei vederle, vorrei sentirle indicare, vorrei capire i leader del centro-sinistra, visto che rifiutano il leaderismo, che cosa pensano di usare al posto della figura del leader. Dopodiché, poi io non sono né a favore né contro il leader, non capisco semplicemente perché in linea di principio un leader non vada bene, perché vedo che Obama ci sta negli Stati Uniti ed è un leader, Blair è stato un grande leader in Gran Bretagna, e sono figure di sinistra che non hanno avuto problemi di fazioni, anche perché le culture politiche sono diverse, ma anche perché erano figure dotate di una certa autorità. Allora perché Obama e Blair vanno bene e in Italia non ci può essere qualcosa del genere? Io aspetto semplicemente una risposta, non ho la risposta, non capisco però l'apriorismo con cui si rifiuta l'idea di un leader che dia un contributo decisivo all'unificazione delle nazioni. C'è un po' di puzza sotto il naso, come si dice popolarmente, verso l'idea di un leader forte che unifica, che fa cartello e che dà un senso e un'anima a un progetto come quello del Partito Democratico. Deborah Serracchiani, lei ha letto, leggerà, conosce le posizioni di Enrico Letta, come le trova? Le trova un elemento vitale nel dibattito interno del vostro Partito Democratico, oppure lo trova un po' troppo tecnocrate, un po' troppo moderato, non so, mi dica lei. No, buongiorno, non ho letto il libro, che tra l'altro verrà presentato a Trieste in questi giorni, per cui naturalmente poi sarà mia cura leggermelo. Certo. Ma trovo che siano posizioni interessanti, perché finalmente si cerca di vedere il Partito Democratico non solo nel breve periodo, quindi questa è sicuramente una cosa interessante. Sulla questione del leader, se posso permettermi, effettivamente trovo che noi abbiamo un po' di paura nell'usare questo termine. Secondo me è una paura di cui dovremmo fare a meno. Certamente non dobbiamo cercare il leader cercandolo in tanti piccoli Berlusconi, questo no. Credo che dobbiamo costruire un leader diverso, che però, e questo per me è fondamentale, si tenga vicino una classe dirigente nuova che sia in grado di battere Berlusconi, che ormai è vecchio, fra 4 anni. Questo sì. Bisogna sentire poi da Berlusconi se fra 4 anni si considererà vecchio, perché è anche capace di farci la sorpresa di dirsi giovane fra 4 anni Berlusconi. Mi sorprenderebbe il contrario. Appunto. Dunque, vedo che al contrario di quanto io prevedevo, trattandosi di trasmissione così un po' politologica, meno garibaldina di quella per esempio di venerdì, grazie a Michele Serra per averla definita bella. Bene, 800 24 00 24, onorevole Letta, ascolti con noi alcune opinioni degli ascoltatori, per poi rispondere Paolo da Palermo. Paolo? Pronto? Sì, può parlare. Dottore Ferrara, buongiorno. Ascolti, io penso che la questione sia un pochettino più semplice di come non la si dipinga. Allora, noi intanto dimentichiamo che il centrosinistra eredita insomma il governo di Prodi, anche se ha preso delle decisioni a mio avviso utili per il paese, però sono state delle decisioni molto impopolari. Purtroppo, gli italiani non me ne vogliono, siamo un po' pecoroni, quindi quello che noi ci piace sentirci dire va bene, quello che non ci piace sentirci dire lo rigettiamo subito. Quindi detto questo, io penso che il centro-sinistra deve fare i conti con questo discorso. Poi il fattore della leadership, la compagine del centrodestra insomma conosce bene, molto bene la comunicazione, è anche una questione di facce, di simpatie, cioè voglio dire di avere quel piglio che prenda bene l'opinione pubblica, qualcosa che dovrebbe imparare anche un po' la compagine di centrosinistra se da qui innanzi voglia avere dei successi in politica, se no mi sembra che non c'è. Ma Franceschini con quel suo golfino, con quella sua aria giovanile, agile, scattante, Franceschini non ce la può fare dopo il tentativo con Veltroni? Sì, potrebbe anche farcela, però dice sempre le stesse cose che sono sempre state dette da tutti, cioè l'anti-berlusconismo, basta. Cioè mettiamo in campo delle proposte, mettiamo in campo delle cose, delle cose che non hanno lei, niente. Lei è stranamente, partendo da un giudizio molto negativo, non molto negativo, anche qui, diciamo con una certa equanimità sul governo di Prodi, perché lei ha detto ha fatto poi delle cose buone, eccetera, però insomma, lei è sulla linea di un rinnovamento totale alla Letta, mi pare. Angelo da Milano? Angelo. La risposta alla domanda del dottor Colfi che fa, dice non si accetta l'idea di leadership a sinistra, è semplicemente perché in questo modo tutti diciamo, gli intestatari di un pezzetto di questa sinistra sono garantiti, cioè in questo modo fanno troppo in fretta con una indicazione nominalistica, il Cavaliere è un fatto a parte, un fatto straordinario, è avulso dalla politica, loro mettendo il nome, tendono a dribblare il problema, così come hanno cambiato 4-5 volte il nome al partito, si vede che poi sono rimasti sempre gli stessi dirigenti e sono sempre lì, e il modo di non indicare uno che comanderà a sinistra è il modo per garantirsi la posizione a tutti. Cambia il mondo, ma non cambia nulla, rimangono sempre lì. Ho capito. Sbagliano a indicare il presidente. Facce nuove e niente nomenclature, niente oligarchia. Avete visto quando Berlusconi va ai convegni e gli fanno trovare una presidenza con tutti i capi bastone del partito, eccetera. A Berlusconi piace stare solo sul palco e guarda tutti loro e dice: ma che siete, una nomenclatura? Che stanno nascendo nomenclature nel PDL? Cioè, l'idea dell'oligarchia è più impopolare dell'idea della monarchia, non c'è niente da fare. Sentiamo Gianluca da Modena. Buongiorno, dottor Ferrari. Io volevo fare una domanda a Deborah. Se non ritiene che in questo momento, io sono elettore del PD, però se non ritiene in questo momento ci sia da parte del PD tenere stretta la sedia, nel senso non c'è un ricambio, non si vuole avere un ricambio. Io vedo anche nella zona dove abito io, sono sempre le solite facce che si presentano, insomma. Secondo me avrebbe bisogno il PD di far crescere qualche giovane, insomma. Io l'età di Deborah, però voglio dire, a 40 anni io penso che uno possa anche emergere in politica. E secondo me nel PD non c'è questa volontà, e tutti tengono stretta la sedia senza pensare che con un rinnovamento forse... Io vedo Berlusconi, insomma, presenta giovani, presenta... E questo secondo me è la forza del centrodestra in questo momento. Io volevo fare questa domanda, questa considerazione. Bene, molto chiaro, molto chiaro. Allora trasmetto l'insieme di queste domande che li riguardano anche nominativamente all'onorevole Letta e ai nostri altri ospiti. Letta, c'è un senso di blocco, come vede, anche psicologico da parte di un certo numero di ascoltatori. Vedo dalle schede che anche le altre telefonate più o meno non si distaccano da questa sindrome. Si vuole una cosa più fresca, più spontanea, più, non so... Ma io guardi, mi è piaciuto l'intervento molto di Angelo da Milano, perché secondo me coglie il punto, cioè il punto di fondo, ed è uno dei capitoli del libro, del mio libro Costruire una cattedrale. Parlo delle primarie famose nelle quali io mi sono candidato contro tutto e tutti, come la Rosi Bindi, nel senso che in nuce il problema del centrosinistra sta lì. I capi del centrosinistra decisero che era Veltroni e fecero le regole dopo aver deciso che era Veltroni, sulla base dell'unico candidato, facendo delle regole che sembrava veramente giochi senza frontiere, non so se lo ricorda, cosa infernale. Siete per chi stati non era... costretti per presentarvi 6.000 persone, 3.000, era molto burocratico. Io ce l'ho fatta dopo un mese di sforzi immensi, la Bindi lo stesso, ma il tema è lì. Alla fine fu scelto Veltroni, ma non furono sciolti i nodi, mancava soltanto che ci fosse una lista che appoggiava Veltroni che si chiamasse I nemici di Veltroni per Veltroni, nel senso che era veramente il cuore del problema, le primarie e la scelta della leadership. E qui dico che io non sono in disaccordo con Ricolfi, tutt'altro. Il tema della scelta della leadership è decisivo per una formazione politica. Io mi sono candidato allora perché volevo sfidare il nostro centrosinistra, perché alla fine il PD era diventato un po' tutto il centrosinistra, a dire: bene, ci mettiamo in campo, ci si candida, chi vince poi governa, ma sulla base di opzioni che siano veramente forti. In questo senso io penso che la questione del ricambio e del campo da gioco sia la questione centrale. Deborah Serracchiani, che si candiderà alle elezioni europee, quindi avrà secondo me un mese che sarà un mese importante anche per far uscire le sue idee, è la dimostrazione di come si debba e si possa fare dentro un partito moderno un'azione che sia un'azione nella quale una delle cose da dire si candida, mette in campo alleanze, mette in campo idee, proposte, e dopodiché però ci devono essere un campo da gioco che consenta di dire: allora vince uno, vince l'altro, ma sulla base di opzioni molto, molto forti e specifiche. Qui il tema di fondo è: le dimissioni di Veltroni, secondo me, hanno chiuso 15 anni di centrosinistra, perché non si può essere in continuità con questi 15 anni, non c'è più un elettorato diviso in due, destra e sinistra, per cui noi basta che rappresentiamo quella parte, certo, lì, poi prima o poi ce la facciamo. Ecco, no. Ma lei dice bisogna proprio puntare alla maggioranza silenziosa che aveva fatto la fortuna della Democrazia Cristiana e del pentapartito. Lei racconta un curioso episodio quando all'epoca del Patto per l'Italia Nino Andreatta la mandò da Giscard d'Estaing per chiedergli di venire a una manifestazione e legittimare come capo della destra liberale, conservatrice, francese, il vostro patto, no? Stiamo parlando del 94, figuriamoci. Ma sì, io avevo 26 anni, ero proprio un ragazzino. E che invece poi l'avete disinvitato, gli avete chiesto no, se ne stia a Parigi, perché avete valutato che c'era un po' da vergognarsi a inseguire la maggioranza silenziosa. E lei dice, siamo sempre lì. Non si sa perché il Partito Democratico non fa la gara per conquistare la vera pancia moderata del paese. Ma il tema è: ci si vergogna quasi a chiedere il voto dei moderati. Il tema di fondo è che il voto di quelli che si autodefiniscono progressisti e di sinistra è un voto che non supera il 25%, il massimo il 30% degli elettori. Allora, se si vuole vincere, se si vuole governare, a meno che non venga fuori, lo cito, cioè consiglio a chi è interessato a questi temi la lettura di un bellissimo libro di un francese, Emmanuel Todd, che parla della situazione francese e dice: Sarkozy vince perché dall'altra parte c'è una gauche che non ha l'ambizione a governare, cioè si accontenta di governare i suoi territori locali, mi verrebbe da dire le sue Toscane, Umbria, Emilia, e non vuole fare i conti con la necessità di quelle alleanze necessarie per essere maggioranza a livello nazionale. Anche Berlusconi fa alleanze, guardiamo che cosa vuol dire, quanto paga con la Lega la sua alleanza, ma la fa perché è l'unico modo per vincere. E io vedo che tante volte da noi, quando si discute di alleanze, si storce la bocca perché quasi si rompe la purezza di che cosa, sinceramente non lo so di che cosa. Ricolfi. Ma io mi chiedo solo una cosa, il discorso di Letta, l'ultimo che ho sentito, è giustissimo, è condivisibile, però come mai quando ci furono le primarie non ci fu da parte di una parte del ceto politico del PD una battaglia per primarie vere? Fummo pochissimi a lamentarci del fatto che quelle erano primarie pilotate. Allora, questa classe dirigente di sinistra, che è consapevole dei problemi che Letta solleva, perché non fece allora una battaglia per primarie vere? Spieghiamoci bene, spieghiamoci bene. Le prime primarie, quelle che incoronarono Prodi candidato a Palazzo Chigi, furono addirittura ridicole, perché lì si candidò anche Bertinotti, che prese un sacco di voti, dicendo io mi candido ma per me il leader è Prodi, cioè io mi candido a fare il leader, però contemporaneamente vi dico che per me insomma è Prodi che deve sfidare Berlusconi alle prossime elezioni. Quindi una cosa veramente assurda, una pura fotografia. E le seconde di cui lei stava parlando furono considerate semi false, perché sì, è vero che Letta si candidò, è vero che la Bindi si candidò e le legittimarono, e poi ci furono altre candidature minori contro Veltroni, però alla base c'era un accordo di nomenclatura di tutti i capi veri delle correnti del PD per fare Veltroni lì. Cioè, a me pare che il vecchio difetto del PC, per cui i panni sporchi si lavano in famiglia, si è riproposto nel maggiore partito della sinistra ai tempi delle primarie e si ripropone adesso. Cioè, c'è una sorta di pudore a non disturbare il manovratore. La nomenclatura aveva deciso per Veltroni, come prima aveva deciso per Prodi, si sta al gioco e non viene fatta nessuna battaglia politica. Ora, questo io penso sia importante, non per piangere sul latte versato, ma perché dobbiamo chiederci perché i giovani sono così lontani dal PD, perché le persone migliori non sono minimamente attirate dalla politica, cioè le persone che fanno politica nel PD o nella sinistra. Certo, ci sono anche alcune persone degnissime in gamba, ma fondamentalmente sono eccezioni. La stragrande maggioranza delle persone che io conosco, che stimo, che sono giovani, non si sognano minimamente di entrare in politica. Hanno un'idea, secondo me, realistica della politica come un luogo in cui non succedono cose interessanti, i giochi sono quelli che sono. Quelli che fanno politica nonostante tutto, e sono persone in gamba, sono persone che hanno un di più di passione politica. Allora tu superi tutto, hai una tale passione politica che entri in questa macchina infernale. Ma il PD deve pensare ai giovani normali, cioè persone che hanno su questo suo ragionamento sul rapporto con la politica sentiamo Antonio da Verona. Antonio da Verona, parli pure. Pronto? E allora sentiamo Pino da Padova. Buongiorno, Save. Dino, non Pino. Dino. Sì. Intanto grazie di darmi questa opportunità. Prego. Io sono intervenuto perché una vostra affermazione circa il fatto che bisogna amare questo paese così com'è mi ha fatto sussultare. Come ho detto alla vostra collaboratrice, io sono un imprenditore, in realtà sono anche il presidente di un'associazione di imprenditori italiani, e quello che mi preoccupa sia da destra che da sinistra è che non si faccia nulla per migliorare qualcosa che è ben prima dell'aspetto sociale, che è l'aspetto economico. Questo è un paese dove il liberismo è costantemente tradito, dove agli imprenditori, a no, chi non è proprio, non è che è tradito, non è proprio accettato, per la verità, insomma, no? No, no, è tradito, cioè, il mercato c'è e funziona. Anche coloro che stanno a destra, anche di fronte a richieste esplicite, precise, sì, che determinano un aspetto legislativo a favore degli imprenditori, in alcuni settori vengono tralasciati, trascurati, volutamente non messi in atto, perché si metterebbero in discussione le oligarchie. Quindi a destra, invece di predicare tanto quanto fanno la destra si è presentata alle elezioni con il suo manifesto ideologico, che era il libro di Tremonti, che era un libro di critica del liberismo e del mercato, lo definiva mercatismo, quindi non è questione che lo tradiscano, lo hanno proprio respinto in un certo senso, cioè sono sempre forze pro mercato, ma in questo momento si sono messe, come giudizio d'epoca, giudizio sul tempo presente, sulla crisi, in una posizione, diciamo, che si appoggia fortemente sullo Stato. Antonio da Verona. Sì, buongiorno, Gianni Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. Quello che mi viene da dire, sono dirigente industria da più di 30 anni, e quando sento l'argomento di Enrico Letta, la cattedrale, eccetera, l'ho trovato affascinante come concetto. Però noto che un conto è fare i progetti e discutere sui progetti, discutere sulle leadership, discutere, però nella mia esperienza di vita ho visto che tutto ciò che mi ha circondato di buono è nato dal lavoro con persone, con la mia squadra, ho lavorato in diverse aziende nel mondo privato, abbiamo veramente detto e fatto in continuazione. Io ho tanti amici di sinistra e io non vedo che differenza quando si ha buona volontà tra destra e sinistra, ma molti di loro, che io comunque stimo, ma sono molto portati continuamente a discutere di progetti, ma il fare dov'è? Per fare non bisogna discutere del badile, della ruspa o del treno, bisogna sapere usare un badile, sapere usare una ruspa, saper guidare un treno. Ecco, questo è ciò che io ho da criticare. Ho capito, un appello forte al pragmatismo. Grazie Antonio. 800 24 0024, Maria da Brescia, e ho poi una domanda precisa sulla base di questa telefonata da fare a Enrico Letta e a Deborah Serracchiani. Maria da Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, a proposito dell'emersione di una monarchia a destra e di una oligarchia a sinistra, ipotesi di cui si parla in studio, sì, a me sembra che ci sia tutta una massa informe di quello che i radicali chiamano il monopartitismo imperfetto, perché quando si tratta di decidere di cose importanti e di legalità e rispettare la legalità, sono tutti d'accordo. Vedasi una delle ultime iniziative dei radicali, quali hanno proposto che il rimborso elettorale sia proprio il rimborso elettorale, quindi su presentazione di fatture, e naturalmente il Di Pietro che va sulle piazze a parlare contro i furti, i ladri di partito e anche i ladri di democrazia e di diritto, eccetera, cioè usa anche l'espressione dei radicali, però in quell'occasione ha votato contro la proposta radicale di trasformare il rimborso in rimborso. Va bene. Ecco, e dico che in un paese dove comunque l'informazione è assolutamente controllata, insomma, basta guardare i telegiornali tutti uguali, basta guardare l'occasione del terremoto in cui c'era un tripudio di osanna al governo, eccetera, e appena c'è una voce dissenziente, per quanto io non la condivida, comunque ci sono scatenati addosso come se fosse un eretico. Ecco, allora io dico, beh, che però non gli hanno fatto niente, in un paese, no? dove l'hanno bruciato, Maria, no? Come? L'hanno bruciato, no? Assolutamente. Però il fatto che senta, ma lei dice leader e protagonisti sono creati dall'informazione, non si creano da soli. In buona, sì, e comunque quando, ecco, i allora volevo, quando volevo i veri, scusi Maria, i veri antagonisti, sì, di regime. Volevo esclusi, sentire Maria, Maria su radicali. Questo volevo sentire Letta che parla di questa storia della mediatizzazione della politica, cioè il nostro legame col presente, dice Letta, e la nostra incapacità di prefigurare, di costruire un futuro politico, di lavorare su tempi più lunghi, di mettere in campo esperienze più significative, di costruire nuove maggioranze anche elettorali, deriva dal fatto che siamo schiavi dei giornali e delle televisioni e anche un pochino delle radio. Cioè siamo schiavi di un'informazione che macina quotidianamente. Per esempio, ecco, vorrei che ne parlassero Letta e Deborah Serracchiani. Deborah Serracchiani è una dirigente territoriale nel Friuli Venezia Giulia dei DS. Poi è una persona privata che ha una sua professione, avvocato del lavoro. Va a una riunione, fa un discorso, il discorso piace, colpisce, crea effetto, crea scandalo, va su tutti i giornali, va nelle televisioni, eccola lì, è candidata alle elezioni europee. Questo meccanismo, la forte mediatizzazione, la creazione di eroi politici anche instant, consente poi il progetto della cattedrale? La domanda è a Letta e poi a Deborah Serracchiani. Secondo me sì, nel senso che i media, in particolare i nuovi media, sono una grandissima occasione per far conoscere le proprie idee. Chi va sui nuovi media non è perché va su nuovi media che viene apprezzato, se poi non ha niente da dire non viene apprezzato, è una grande piazza che consente magari quelle cose che prima non accadevano, cioè uno aveva cose intelligenti da dire ma non aveva i canali giusti, nessuno se lo filava e stava nascosto e non contava nulla, quindi in questo vanno usati e vanno usati bene. Il tema di fondo è cominciata una legislatura che durerà 5 anni, in questa legislatura che durerà 5 anni abbiamo passato appena i primi 10 mesi, il tema vero sarà il 2013, noi dobbiamo costruire, secondo me, resettando completamente rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, un centro-sinistra che sia in grado di proporsi come vincente nel 2013. Ecco perché dico attenzione a non infilarsi nelle diatribe della trimestrale di cassa, uso questa diciamo immagine, certo, nel libro, perché in fondo la trimestrale di cassa, cioè l'attenzione al risultato immediato, è quella che ha fregato anche l'economia reale, perché il risultato, la creazione di valore è di per sé un qualche cosa che ha bisogno del medio-lungo periodo. La creazione di valore sull'immediato è una creazione di valore che molto spesso è fittizia, perché poi è la solidità, e in questo caso la solidità vuol dire argomenti che durino nel tempo e strutture politiche proposte che durino nel tempo. Allora, qui noi abbiamo mesi, anni di tempo per capire quello che si è sbagliato, per rimettere in campo novità importanti, alleanze, per costruire delle alleanze ci vuole tempo. Io ho sempre guardato con grande rispetto la traversata nel deserto di Berlusconi negli anni scorsi, quando prima ruppe con la Lega, poi capì e cominciò a costruire un percorso che poi l'ha portato dove l'ha portato. Certo, dal 95 al 2001. Ecco, io ho l'impressione che noi dobbiamo in questo imparare innanzitutto a smettere di lavare i panni sporchi in casa, come dice Ricolfi, a essere totalmente trasparenti, i linguaggi del fare. Antonio da Verona ha detto, secondo me, delle cose che io condivido completamente. Nel libro cerco di mettere un sacco di cose piccole, concrete, non soltanto riferimenti astratti, perché poi la cattedrale si fa con i mattoni impilati. E poi c'è una frase di Andreatta che io cito appunto anche nella terza di copertina, che trovo straordinaria, cioè non è soltanto questione del mattone da mettere, ma l'attenzione con la quale lo scalpellino medievale faceva bella non solo la facciata che tutti vedevano, ma anche quella scultura in alto a destra dietro che soltanto i piccioni possono apprezzare, che sì, secondo me è bella, straordinaria. Molto bella, non c'è dubbio su questo. Deborah Serracchiani, come si farà a dimostrare che non è un fuoco di paglia il fatto di andare a una riunione, essere apprezzati ed essere subito candidati alle europee? Ma guardi, io sono, come ha detto lei, una dirigente, sono il prodotto del Partito Democratico, non sono nata il giorno dell'assemblea, questo vorrei che fosse chiaro, certo, a tutti, perché come me ce ne sono tantissimi di giovani o meno giovani che hanno le idee chiare sul Partito Democratico. Io vorrei anche aggiungere una cosa. Mi pare che stiamo parlando di come mettere bene i mattoni, di non accatastarli e basta, ma prima di fare qualunque passo di questo tipo ci vorrebbero delle fondamenta degne di questo nome. Quindi io credo che prima di, come dire, metterci a cercare il nostro elettorato, l'elettorato più giusto, quello più ampio, quello che ci faccia vincere, dobbiamo, credo, anche avere qualcosa da dire a questo elettorato, no? E glielo diciamo soltanto se iniziamo a cambiare da dentro anche il modo con cui facciamo politica. Per cui è vero forse che ci vuole una leadership, ma vede, il leader che noi abbiamo naturalmente, vediamo in modo diverso rispetto all'elettorato di centrodestra, perché lì è vero che c'è un riferimento anche ad alcuni giovani, ma stiamo parlando di nominati, cioè lì non c'è una classe dirigente che viene in qualche modo costruita e che appare all'esterno, noi vediamo soltanto Berlusconi e tutto il resto sono persone nominate da Berlusconi, punto. Faticano anche i leader dei partiti di provenienza ad avere una propria visibilità. Fini sta diventando famoso in quanto compagno Fini, non perché ha, come dire, una sua compagno visibilità degna di questo nome. Come va bene. Dunque, Letta, devo farle un paio di domandine d'attualità, se mi consente. Si candiderà o no dopo le elezioni provinciali, amministrative ed europee, quando si aprirà il dibattito dell'autunno sul nuovo leader del PD? Ho scritto questo libro perché sembrerebbe un libro per candidarsi, pensavo che penso culturale. Che sia essenziale che appunto le potenziali aspiranti leadership non siano tale soltanto come un concorso di bellezza, è alto, basso, bello, brutto, ma perché uno mette in campo delle idee. Secondo me dipende anche molto da che effetto avrà il libro e che effetto avranno le idee che ho messo in campo. Sulla base di questo deciderò, sicuramente saranno in campo le mie idee, troverò poi le forme e i modi perché questo essere in campo si traduca in qualche cosa di politicamente molto rilevante. E non c'è un'analogia con Franceschini, col suo lavoro, con la sua provenienza? Cioè, in che cosa lei è diverso da Franceschini? Mi scusi, è un po'... come dire, un po' impicciona la domanda, ma gliela devo fare. Ma io sono... Perché Franceschini è anche lui un cattolico di sinistra, viene anche lui, insomma, Ferrara, insomma, no? Più o meno è quell'Italia lì, quell'Italia del centro-nord, quell'Italia solida. Qual è la differenza? Perché uno dice Letta o Franceschini? Ma io non, secondo me non c'è da dire oggi Letta o Franceschini. C'è oggi Franceschini che fa il segretario del PD, io lo appoggio, gli sto dando una mano con tutte le forme che posso. Il libro è anche un modo per cercare di andare appunto a scavare là dove il Partito Democratico oggi fa più fatica, e quindi è un modo anche per aiutare, quindi non mi vedo in un'alternativa personale. In questo momento in questo comunque no, poi vediamo. Rifuggo questa logica personale, proprio per questo che ho messo in campo delle idee, e mi farà piacere se sulle idee del libro si discuterà e poi magari qualcuno sarà d'accordo, qualcuno sarà contro. Va bene, grazie Enrico Letta, grazie a Luca Di Colfi, a Deborah Serracchiani, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattè, linea al GR, grazie anche naturalmente a tutti gli ascoltatori che hanno telefonato, che fa uno speciale il GR Terremoti, e poi a Gianluca Nicoletti con Meloc 2.0. A domani, baci!